Pioveva e di corsa dai campi raggiungemmo una casa deserta, dal corpo cadde giù il mio vestito blu. E mentre sul tiepido fieno si asciugava il vestito bagnato, senza saper perché, io caddi insieme a te, accanto al fuoco. Stringimi, stringimi, il volto tuo cercò il mio petto. Stringimi, stringimi, cantava l'acqua sopra il tetto. Stringimi, stringimi, l'amore nostro fu realtà. Stringimi, stringimi, amai con la mia verità. Stringimi, stringimi, il volto tuo cercò il mio petto. Stringimi, stringimi, cantava l'acqua sopra il tetto. Pozze dell'acqua rispecchiavano l'arcobaleno e non pioveva più, il cielo era blu. Fringuelli sugli alberi in fiore, dentro l'anima il canto del sole, quell'ora insieme a te rivive ancora in me, nella mia mente. Stringimi, stringimi, il volto tuo cercò il mio petto. Stringimi, stringimi, cantava l'acqua sopra il tetto. Stringimi, stringimi, l'amore nostro fu